FM。 Sì, un'altra band storica, la PFM, questa volta un orgoglio italiano. La canzone che avete ascoltato era Celebration. Andiamo oltre Manica, ci sono i Pink Floyd di On the Turning Away. On the turning away from the pale and downtrodden and the words they say which we won't understand. What's happening is just a case of all the suffering. Oh, you'll find that you're joining in the turning away. It's a sin that somehow light is changing to shadow. Eh sì. Oggi un successo dopo l'altro, una grande canzone dopo l'altra. Beh, in realtà non è che a Rock FM non sia sempre andata così, però diciamo che l'interazione del mio programma ovviamente oggi è fortemente compromessa, però come vedete non vi lascio senza la buona musica, dai Pink Floyd infatti a Frank Zappa. Take a stab at no mass and disappear down the flamingo lane. kids around here look just like shadows. Gangs. the city, two hearts beat, soul engines running through a night so tender. In a bedroom locked, in whispers of song, refusal and then surrender. In the tunnels uptown, the rats on dream guns him down. The shots echo down them hallways in the night. No one watches and the ambulance pulls away. Where's the girl shuts out the bedroom light? Outside the street's on fire, a real death waltz between what's flesh and what's fantasy. Try to make an honest stand, but they wind up wounded, not even dead. Tonight in jungle land. Questa era la sua Jungle Land. Tra l'altro non è molto che è passato il 5-5, no? Che è quel giorno nel quale i fan di Bruce Springsteen creano in occasione di insomma una cadenza storica dell'incontro con Bruce Springsteen, appunto i fan tutti gli anni celebrano il 5 di maggio, il 5-5 appunto, per appunto rincontrarsi e insomma festeggiare insieme la loro passione per Bruce Springsteen. Ma dal boss passiamo a un'altra band storica, questo è il nuovo dei Journey, si chiama After All These Years. Faded wedding photograph, you and me in our first dance. Our eyes are closed, we're lost in one sweet embrace. Since those days the world has changed, but our love remains the same. God knows if I had our share. And I'm proud of all the blessings you have given me. The mountains we've climbed to get this far. We've learned to take the laughter with the tears. After all these years, dagli storici Journey, riascoltati con After These Years, passiamo a un altro grande. Il suo nome è Alice Cooper, come noto uscirà a breve, anzi in realtà credo a luglio, con il nuovo disco. Lo aspettiamo, intanto ha, come dicevo ieri, anche programmato una tournée piuttosto lunga che toccherà almeno gli Stati Uniti. Staremo a vedere quando verrà in Europa, ovviamente lo accoglieremo a braccia aperte. Lo riascoltiamo con Poison. Kill.